Ma la riva è lontana più di quello che sai, e i tuoi cerchi nell'acqua non vi arrivano mai. Ma in quale acqua faceva i suoi cerchi, magari lanciando i sassolini, Memo Remigi? Lo chiediamo direttamente a lui. Memo Remigi. Buongiorno. Buongiorno. Dov'è, in vacanza? Sono sul lago. Ecco, perché ho voluto chiamare Memo Remigi, perché per me è l'unico grande lacustre musicale italiano. No? Perché in Inghilterra hanno avuto i poeti lacustri, verso la fine dell'Ottocento. In Italia no. Abbiamo un musicista lacustre e poi qualche scrittore come Vitali oppure come Piero Chiara. Invece Memo Remigi è l'altro aspetto del lago, perché il lago è un po' il mare dei milanesi, non è vero? È verissimo, è verissimo, ma fin dai tempi remoti. Io abito a Varese, le ville più belle che ci sono a Varese sono dei milanesi che andavano in vacanza a Varese perché c'era il lago e altri laghi, il Lago Maggiore, il Lago di Garda, che sono vicinissimi, per cui la zona dei laghi è molto frequentata. Poi il lago è stupendo, non ha niente da invidiare al mare. Ma Memo Remigi è andato al mare in vacanza? Ma io vado al mare, però ti devo dire, non è la mia passione assoluta il mare, perché per tante ragioni. Innanzitutto perché quando si decide di andare al mare, io preferisco andare nei periodi dove non ci vanno gli altri, per cui il fatto di andare nei periodi, diciamo agosto, fine luglio, così, c'è una marea di gente, proprio marea di gente, con la parola anche giusta, e ci si muove anche male, mentre se tu vai sul lago, il lago è più riposante, è più romantico. Quel senso di tristezza che ti dà il lago, anche d'inverno, è un'atmosfera molto più dolce, che non te la dà il mare. Il mare è un'altra cosa, il mare è aggressivo, il mare è simbolo di potenza, mentre il lago è simbolo di tranquillità. Io sono uno tranquillo, forse per quello che amo il lago.